Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, parleremo di icone e di messaggi, dei piedi nel cervello e di secoli e fallimenti. Non c'è la caccia? Sì, in diretta.